Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi. Noi siamo qua pronti con Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e c'è Laura Faggin oggi in assistenza e in redazione. Come sempre c'è il nostro sommario. Andiamo! Se il gomito o la spalla si lamentano, la dieta salvavista. Vitamina D e cortisone, novità dalla ricerca. Sì, cari amici, sono il gomito e la spalla, le star della nostra puntata. Voglio presentarveli con una filastrocca. Il gomito a tennis si piega e si flette. Sul campo da gioco di tutto permette. Diritti, rovesci, gli smash e le volée. Della terra rossa è il grande re. E un poco più in alto lo comanda la spalla, che nella battuta in alto lancia la palla. Di entrambi ha bisogno anche il nuotatore. Ma se hanno un problema, è fatica e dolore. Allora, voglio ringraziare l'amico Alberto Pellai che gentilmente ha scritto per noi queste filastrocche. Magari volete farle ascoltare ai vostri bambini, è divertente. Ma intanto io voglio presentarvi gli ospiti di oggi che sono in studio con me. Il dottor Dario Petriccioli, responsabile dell'unità operativa settima di ortopedia e traumatologia dell'Istituto Clinico Città di Brescia e delegato per la Lombardia della Società di Chirurgia Spalla e Gomito. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Elena Laura Copaciu, che è fisioterapista, posturologa e osteopata. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Tre in uno, allora. Dottor Petriccioli, io non so quanto lei se la cavi con le filastrocche, però sono certa che anche lei ha una sua carta da giocare. Ci può raccontare e presentare queste due articolazioni in modo efficace, magari iniziando dalle caratteristiche, dai cosiddetti punti di forza. Inizierei dal gomito. La filastrocca, secondo me, dottoressa, è azzeccata. Oh, bene, lo diremo ad Alberto Pellai, che è un filastroccaro. Sì, perché dà benissimo quella che è l'idea di queste due articolazioni, che sono molto diverse, ma sono ovviamente complementari. L'idea del gomito come un qualcosa di fisso, di stabile, che ha bisogno di stabilità e di prendere un oggetto e, flettendosi ed estendendosi, di portarlo alla bocca. Chiunque di noi che ha avuto un amico che ha un gomito rigido sa che ha difficoltà a mangiare, a farsi la barba, certo. Eccetera. La spalla invece è sinonimo di motilità, di movimento, di movimento in tutti i piani dello spazio per cercare di raggiungere gli oggetti, oggetti che poi mano e gomito porteranno alla nostra presentazione. Per cui diciamo che sono due articolazioni estremamente diverse, ma di cui lei è molto innamorato, tanto. Diciamo la verità, le piacciono un sacco. Tanto. Sì. Le ripara, le rimette in funzione. Sì, è una sorta di affetto più che di amore. Un affetto che è iniziato già alcuni anni fa. Sono due articolazioni molto difficili. Quindi quando tu inizi ad approcciarti a queste articolazioni, all'inizio lo fai come una specie di sfida. E essendo difficili, poi ti sei ancora più motivato, sempre più motivato a capirle, a impararle, a studiarle e a ripararle. Dottoressa Copaciu, il dottor Petriccioli le ripara, lei invece le tiene in forma. È più facile tenere in forma la spalla o il gomito? Quale le dà più filo da torcere? Ma tutte e due sono bellissime, due articolarità molto importanti, e ritengo che anche una compensa l'altra, per cui non trovo difficoltà su nessuna delle due. Allora, dottore, in questi ultimi anni il gomito e la spalla vivono una nuova primavera. Sino a qualche anno fa, anche loro, intorno ai 60 anni, andavano in un certo senso, lo metto tra virgolette, in pensione, perché continuavano a svolgere i loro compiti, ma non venivano loro richieste delle prestazioni straordinarie. Invece adesso spalla e gomito devono essere sempre all'altezza della situazione, che tante volte è molto impegnativa. Sì. Vede dottoressa, si è assistito un pochino a quello che accadeva negli anni 80 per il ginocchio. Nella medicina e nella chirurgia anche qui ci sono le mode, lo dico in maniera affettuosa. Sì. Però devo dire che anche qualche anno fa, nel caso ad esempio delle patologie del ginocchio, si tendeva a non riparare più le lesioni ad esempio dei legamenti crociati del ginocchio. Poi un paziente cinquantenne, over 50, diceva: io ho tutto il diritto di fare sport, di fare quello che facevo prima, quindi perché devo avere un ginocchio instabile? Certo. Ecco, la spalla e il gomito stanno vivendo adesso una situazione simile. Diciamo che attualmente il paziente sessantenne, over 60, almeno nella mia esperienza, sta facendo esattamente le stesse cose che 10 anni fa faceva il paziente cinquantenne. Certo. Se a questo aggiungiamo che il ruolo della chirurgia mini-invasiva, rappresentata dalle tecniche endoscopiche, in particolare dell'artroscopia, ha reso meno traumatici gli interventi su questo tipo di articolazioni, A questo si può arrivare alla conclusione che il paziente over 60 con una tecnica artroscopica ha tutto il diritto di chiedere e di avere ad esempio una riparazione dei tendini della spalla che sono stati lesionati. Allora, non vogliamo più solo essere in gamba ma anche in spalla. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, chiamatelo per saperne di più, mandateci come state facendo già i messaggi al 349 238 6666. Dottor Petriccioli, lei ci ha dato due buone notizie in una volta sola. Viviamo più a lungo, restiamo attivi più a lungo e questa è sicuramente una conquista, un'occasione di benessere. Seconda buona notizia, la chirurgia diventa sempre meno invasiva e quindi più rispettosa dell'articolazione che dopo opportuna riabilitazione torna a lavorare bene. 800 24 0024, vi aspetto. Una mela al giorno. E adesso voltiamo temporaneamente pagina per parlare di dieta. Venerdì scorso abbiamo proprio dedicato un'intera trasmissione alla dieta mediterranea che, mi piace ricordarlo, cari amici, si conferma come lo stile alimentare più amico della nostra salute. Vista compresa, aggiungerei. Sono soprattutto le verdure e la frutta in genere a proteggere i nostri occhi, quindi dato che questa è la loro stagione d'oro, approfittiamone. In linea con noi il professor Corrado Balacco Gabrieli, che è direttore del Dipartimento di Scienze Oftalmologiche Sapienza Università di Roma. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Professore, pomodori, insalata, verdura foglie in genere, ma anche albicocche, ciliegie, meloni, un trionfo di colore e di sapore, direi ad alto contenuto preventivo. Certamente sì, indispensabile che nella dieta, nella nostra dieta di tutti i giorni, siano presenti questi alimenti, che sono preziosi non solo dal punto di vista della digeribilità, oltre che del sapore naturalmente, ma che sono necessari, io ritengo addirittura indispensabili per la prevenzione di alcune patologie oculari molto diffuse e ricorrenti e sempre più presenti, data anche l'allungamento della vita media che c'è nella popolazione italiana. Come sappiamo, siamo i più longevi del mondo assieme ai giapponesi. Questo naturalmente crea da un lato tante belle aspettative e tanta gioia di continuare a vivere nel modo migliore possibile, però crea anche dei problemi di natura inevitabili legati all'invecchiamento del corpo e del fisico. Però oggi abbiamo la possibilità, siamo certi di questo, di poter prevenire in gran parte molte di queste patologie oculari, anche queste legate all'invecchiamento del nostro fisico, con appunto una sana e giusta alimentazione. Quello che lei diceva, verdure a foglia larga, soprattutto insalate, lattughe, sedano e poi moltissima frutta. Bisognerebbe abituarsi fin da piccoli, abituare i nostri piccoli a mangiare ogni giorno almeno dai 3 ai 4 pezzi di frutta fresca e verdure in abbondanza. Quindi, professore, per le malattie oculari la prevenzione inizia a tavola, ma non finisce lì, perché se quello che mangiamo è importante, lo sono ugualmente i controlli e la diagnosi precoce. Questo, professore, vale per tutte le malattie, ma per alcune in modo particolare. In modo particolare, abbiamo parlato a lungo di questa patologia purtroppo sempre più presente, che è la maculopatia, cioè l'alterazione della funzione visiva dovuta a questo disturbo, a questa alterazione che può essere di vari tipi, della retina centrale dell'occhio, che poi è la zona reputata alla visione distinta. Ora, la maculopatia è sicuramente prevenibile, ahimè curabile fino a un certo punto, ma prevenibile con questo tipo di alimentazione. Oggi abbiamo la fortuna anche di poter intervenire in queste patologie maculari del centro appunto della retina con farmaci opportuni e con altri tipi di intervento che possono migliorare sensibilmente la funzione visiva in questi pazienti che presentano questo tipo di alterazioni e di disturbi. Professore, diamo solamente un'indicazione ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo. Quali sono i segnali che ci possono far capire che la nostra macula inizia ad avere un problema? Sicuramente il primo segno è quello di vedere le immagini che cominciano a distorcersi, cioè non sono più nitide, ma presentano un po' un andamento ondulatorio nella percezione dell'immagine stessa, e questo è il primo segno che deve mettere in allarme. E poi dopo ci sono altri segni, tipo per esempio quello di notare delle aree non ben nitide al centro della nostra visione, con o annebbiamenti di vario tipo. In questo caso è indispensabile andare subito da un medico oculista specialista, farsi fare una visita clinica completa e poi anche degli accertamenti più approfonditi con delle apparecchiature di cui oggi disponiamo, che possono aiutare molto ad individuare e a fare quindi una diagnosi esatta. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, quindi puntiamo sulla prevenzione, ma ci aiutano naturalmente anche i controlli con la diagnosi precoce. Abbiamo sottolineato quali sono i campanelli d'allarme, i sintomi che non vanno assolutamente trascurati. Ringrazio il professor Balacco Gabrieli, direttore del Dipartimento di Scienze Oftalmologiche Sapienza Università di Roma. Professore, le auguro una buona giornata, a presto. Anche a lei buon lavoro, a presto. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci di gomito e di spalla. In studio con me il dottor Dario Petriccioli e la dottoressa Elena Laura Copacio, a cui affideremo tutto quello che riguarda la riabilitazione, le cose da fare subito anche per alleviare il disturbo. Dottore, io vorrei dividere le patologie che interessano queste due articolazioni in grandi famiglie, in macrofamiglie, no? Per il gomito, di quali patologie possiamo parlare? Dunque, per cercare di essere estremamente semplici, sì, per esemplificare al massimo, esatto. Cerchiamo di, nel caso del gomito, direi che uno dei capitoli più importanti è rappresentato dalle tendinopatie, dai problemi tendinei da sovraccarico. Sì. La famosa epicondilite del gomito del tennista o l'epitrocleite del gomito del golfista. Ecco. Sì. Queste sono le cosiddette patologie soprattutto acute o subacute, quando si va incontro anche a delle volte a dei traumatismi ripetitivi a carico del gomito. Mm. Ci può essere l'evento isolato, acuto, lo sforzo improvviso che durante una giornata, oppure ci possono essere delle patologie cosiddette da overuse, da sovraccarico, in cui questi tendini comunque, che sono un po' permalosi, me lo permetta, sì, si vanno ad infiammare. Anche loro, insomma, esatto, qualche piccolo, no, difetto devono averlo. Devono anche loro, c'è poi il capitolo delle tendinopatie, delle artropatie degenerative, cioè il gomito che va incontro a un'artrosi, come tutte le articolazioni è fatto di cartilagine, quindi anche lì la cartilagine può consumarsi e venire fuori un'artrosi. E poi il gomito ha fondamentalmente due problemi che sono opposti: può diventare un gomito rigido o un gomito instabile. Mm. E in tutti e due i casi comunque abbiamo dei problemi, perché il gomito ha la caratteristica soltanto di flettersi e di estendersi, basta, non deve fare altro. Sì. Se questa limitazione, se si flette troppo diventa poco, instabile, certo, o diventa rigido. E quindi questi sono due grandi capitoli, anche che sono una sfida anche per il medico e per il chirurgo che le deve affrontare. Mentre per la spalla, ci dà più problemi. Sì, la spalla direi ci che sguazziamo. La spalla soprattutto va incontro a quelle che sono le patologie dei tendini della cuffia dei rotatori. Sì. Oppure nella maggior parte dei casi, soprattutto questa a carico più dei giovani, la spalla può avere problemi di stabilità, cioè la spalla rimane difficilmente al suo posto, esce, e quindi esce, va a farsi un giretto e poi ritorna. Allora, io vorrei rivolgermi agli sportivi. Lei ha citato il gomito del tennista, quindi tennisti a rischio, ma lei ha detto anche golfista, ma io vorrei che da casa non vi faceste trarre in inganno, perché può piangere anche il gomito di chi non gioca a tennis, non gioca a golf, ma scrive romanzi, conduce programmi, archeologo, narratore, saggista, come Valerio Massimo Manfredi, che ho il piacere e l'onore di avere in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Galeotti. Sono un ascoltatore di Radio 24. Magnifico, magnifico. Spero che senta anche regolarmente Essere Benessere. Me lo sì, auguro. Spesso. Bene, sì, bene. Senta, e il suo gomito? Galeotto fu però... Il mio gomito va benissimo, è perfetto, io faccio un'ora di ginnastica tutte le mattine, anche alle macchine, tutto. Però ho patito molto, a parte che domani porto mia moglie poverina a farsi operare proprio di epicondilite qui al Policlinico. Sì. Per lei è stato un gesto sbagliato, cioè ha buttato il sacco della spazzatura dentro al cassonetto, sì, era il sacco umido, quindi pesante. Ha fatto un movimento evidentemente sbagliato, poi verso l'alto, contorsione, e non si è più ripresa. Io invece aspettavo i muratori e questi arrivano, dovevamo fare la pavimentazione davanti al garage, li aspettavo da tanto tanto tempo, sì, è venuta meno la corrente, hanno detto andiamo via, torniamo un'altra volta perché non va la betoniera. Ho detto no, voi state qui, se non tornate più la betoniera sono io. e quindi ho fatto 1,5 metri di calcestruzzo a Badile e il giorno dopo avevo male al gomito, per cui sono stato dal mio amico dottore, tra l'altro un medico sportivo, mi ha detto ma tu fai tennis? Ho detto no, Badile. Badile, il Badile di per sé però devo dire che il badile di per sé non ha colpa, è che quel badile aveva un manico sbagliato, quindi non era bilanciato e lo sforzo quindi non era ergonomico. Io penso che sia questo proprio che mi ha provocato l'infiammazione. Quindi se dovete usare badili, sceglieteli con cura, dottor Petriccioli. Sì, bisogna prima di tutto aiutare le mogli nel gettare la spazzatura. Prima bisogna, è una, sì, un aspetto importante questo, per evitare che le mogli vadano incontro ai epicondiliti chirurgiche poi. Sì. Quindi i sacchi della spazzatura, esatto, portateli voi. Chissà, sì, quanto gliela fatta un po' pesare. Lei non era a casa. Ero in Messico, non potevo portarle il sacco della spazzatura. Ecco, sei salvato, perché se no pensi, ero, sono andato, Messico. Tu non sei andato, ho dovuto farlo io, guarda, no, è colpa tua. Invece anche la collaboratrice domestica, cioè lei che ha fatto... Noi donne vogliamo sempre strafare ogni tanto. È stata imprudente. Però direi che c'è stata in questo caso, nel caso suo, dottor Manfredi, c'è stata sicuramente una concausa. Una l'ha già credo individuata lei, cioè sull'ergonomia dell'attrezzo. Chi guarda il tennis, chi vede il tennis, chi si occupa di tennis sa che comunque le racchette rigide danno comunque dei problemi di vibrazione, quindi di sollecitazione sui tendini epicondiloidei. E l'altro aspetto è quello probabilmente del sovraccarico improvviso, eccessivo, in cui un'articolazione magari in quel momento non era abituata. Quindi... Ma adesso sta bene il suo gomito, come l'ha rimesso a posto? Ecco, devo dire in un modo molto semplice, sì, il medico mi ha detto per 3 mesi non dare nessun carico a questo gomito. Perfetto. Io ho obbedito e non ho mai più avuto nulla. L'unica piccolezza proprio... è che quando cambia il tempo posso sentire, ma anche se sto leggendo, insomma, non sto facendo niente, posso sentire un minimo di dolia, insomma. Ecco, dottoressa Copaccio, allora le affido il dottor Manfredi. Se quando cambia il tempo ha dolore, che cosa può fare? Una doccetta calda, un po' di stretching? Un dolorino minimo, ma noi vogliamo coccolarla comunque. Va via subito, non è un problema. Quindi appena arriva va, ma... Allora, potrebbe fare una doccia calda, una doccia fredda, proprio l'occo dolente, che così aumenta la vascolarizzazione, per cui il tendine è più vascolarizzato, quindi ha anche una funzione antalgica, diminuisce il dolore. E consiglierei proprio al dottore un quotidiano stretching, proprio per mantenere, è fondamentale questa elasticità dei muscoli e soprattutto i tendini, perché così evita in un domani un ulteriore sforzo che loro rischiano a rompersi, sono più portati ai microtraumi. Io prima di salutarla volevo sapere, a lei non ferma nulla perché viaggia, fa programmi, scrive romanzi, saggi, racconti eccetera, adesso che cosa sta facendo? Ma sto per partire. Cosa ci combina? Ecco, dopo che sua moglie verrà operata. Sto per partire per il Messico, dove girerò uno speciale per la rete con cui collaboro, la 7. Sulle civiltà precolombiane. E quindi starò in Messico 8-9 giorni. Poi intanto sto scrivendo il mio nuovo romanzo, che è molto nuovo, molto diverso da quello a cui sono abituati i miei lettori, ambientato nel Novecento ed è ambientato proprio qui al mio paese dove sono nato, quindi è una cosa molto molto molto diversa. Molto diversa. Molto diversa. Quindi una in versione nuova. Sì, è un'esperienza che una volta nella vita bisogna fare, no? Ecco, ormai lei in Messico è di casa, mi saluta tanto sua moglie? Lo farò volentierissimo. La penseremo domani. Grazie per essere stato con noi. Buonissima giornata. Attenti a quei due, oggi parliamo di gomito e spalla. 824 0024. I messaggi al 349 238 6666. Stefano della provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come ho detto la signorina, sono 55enne e pratico nuoto agonistico da un po' di anni. E praticamente a fine anno ho dovuto cessare l'attività in quanto dolorante alla spalla sinistra, e tramite un'indagine che ho fatto sia di radiografia che ecografia ho avuto la segnalazione di una piccola calcificazione ossea e una tendinosi al deltoide che mi dà praticamente delle fitte dolorosissime anche in assenza di movimento, quindi anche dopo aver cessato l'attività sportiva. E tramite un amico medico che è un reumatologo e mi ha consigliato e abbiamo praticato due infiltrazioni di, penso, di cortisone all'interno della spalla, per, e sto avendo anche un sensibile miglioramento. Volevo sapere se la strada giusta oppure... È la strada giusta. Allora, dottor Petriccioli, lei come chirurgo, e poi naturalmente la dottoressa Copaciu che può darci qualche indicazione. Dottor Petriccioli. Beh, come chirurgo, intanto non è mia intenzione proporre nessun intervento all'amico Stefano, sì. Pisano. Sì. Stefano Pisano. Credo, Stefano, che la cosa importante sia fare una corretta diagnosi. Quando lei porta la macchina dal meccanico, bisogna capire dove è il guasto. Lì bisogna cercare di capire, in un'attività sportiva agonistica, è presumibile che stia venendo fuori una patologia da sovraccarico a carico delle strutture endoarticolari della spalla. Bisogna fare una diagnosi. Infatti gli hanno detto tendinosi, giusto, esatto. Stefano? Sì, esatto. Sì. Ecco. Io tra l'altro devo dire la verità che ho anche forse calcato un po' troppo la mano. Infatti, la spalla in questo senso. Dico sempre che spesso dovremmo sganciare quello che è la testa e diciamo dal fisico, perché tendenzialmente la testa ti porta a fare di più, a esigere prestazioni sempre più alte. Esatto. Allora Stefano ci ha già detto che ha fatto due indagini, sono quelle per valutare la situazione? Aggiungerei, se posso permettermi, visto che Stefano mi sembra una persona molto motivata e molto attiva, mi permetterei di consigliare anche una risonanza magnetica. Per vedere bene la situazione. Per vedere bene la situazione, questo ovviamente lo deciderà poi lo specialista, per capire quale può essere veramente il problema di una persona che fa agonismo a 55 anni. Infiltrazione, ha detto, due infiltrazioni, supponiamo di? Cortisone, Stefano? Sì, mi sembra, sì. Sembrerebbe di sì. È una strada percorribile? Sono alternative? È una strada percorribile, soprattutto dal punto di vista sintomatico, per togliere un'infiammazione che sicuramente Stefano aveva. Dottoressa Copaciu, io arrivo da lei per dare un'indicazione a Stefano, ma alle persone che si ritrovano nella condizione di Stefano, quindi anche con questa spalla che si risveglia diventando dolorante anche senza essere sollecitata da movimenti. Che cosa si può fare? Può aiutare la ginnastica, la riabilitazione, terapie manuali, terapie fisiche, accorgimenti nel quotidiano da evitare o da seguire? Sì, allora Stefano, gli consiglierei una buona valutazione biomeccanica della spalla da un fisioterapista, e potrebbe avere come supporto una terapia manuale che fa della kinesiterapia passiva, che induce una decooptazione e quindi il tendine viene più nutrito, la capsula avviene con uno stretching e quindi dà proprio un meno affaticamento su queste strutture tendinee legamentose. Può anche eseguire una terapia fisica che ha sempre come scopo una funzione antalgica, che produce un calore endogeno, quindi attenzione, non andiamo sui calori esogeni, quindi anche la crioterapia, che potrebbe essere anche l'utilizzo del ghiaccio, che non fa altro che chiama sangue, quindi ossigeno, quindi tutti questi tessuti vengono nutriti e migliora tutto questo ristagno endoarticolare, può favorire una guarigione per poi arrivare a un lavoro attivo per stabilizzare questa biomeccanica della spalla, perché bisogna vedere il gesto completo proprio in catena cinetica chiusa, per cui ci sono dei lavori specifici per fare un ripristino dell'ipertono, cioè dei muscoli che lavorate di più, certo, e dei muscoli mettiamo un pochino in sesto, esatto. E facciamo lavorare gli altri. Esatto. Renato da Bergamo, gomito spalla. Spalla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, allora andiamo ancora sulla spalla, qual è il suo problema? Esatto, il mio problema è che ho consumato la testa della cuffia, non so se sono termini perché non ho qui... No, ma guardi che il dottor Petriccioli capisce, vero? Lo vedo con lo sguardo vispo, per cui ha capito. Ho consumato i legamenti. Ecco, la cuffia e il legamento. Ecco, io ho consultato due ortopedici... E uno mi dice che sarebbe da operare. E l'altro invece no. E l'altro no. Mi dice che non è da operare. Ecco. Io ogni anno che mi faccio una serie di infiltrazione di cortisone 4 per la precisione. Il mio cardiologo, perché io sono oltretutto, ho tre stent coronarici. Sì. Non è neanche lui molto propenso all'operazione. Certo. I due ortopedici, nessuno dei due mi ha garantito che dopo operato tornerebbe nuovo. tornerebbe nuovo. Ecco, allora Renato, la tentazione è forte, ma l'intervento del cardiologo dice meglio di no. Due specialisti, e come sempre capita, dottore, non si offenda, però se io sento tre medici mi dicono tre cose diverse, è un classico, no? E giustamente ciascuno dice la sua, poi toccherà al paziente fidarsi e affidarsi. Renato, quanti anni ha? Io ne ho 67. Cosa fa nella vita? Sono portatore di tre stent coronari. Ma cosa fa nella vita lei? Pensionato? Ma io adesso sono pensionato, per pratico l'alpinismo quello puro. Sì. Non più come prima, perché con i stent... Certo, bisogna stare un po' tranquillini. Dottor però, ecco, Petriccioli. Allora io direi che comunque, prendendo spunto da quello che le ha detto la dottoressa Carbone, lei starà un pochino più tranquillino. E quindi è presumibile, adesso a distanza è molto difficile fare una diagnosi, però è presumibile, Renato, che non ci sia la necessità di un intervento chirurgico. Questo tipo di spalle che hanno delle lesioni complesse a carico dei tendini della cuffia e dei rotatori, come presumo abbia lei, traggono notevole vantaggio da riduzione del livello di attività, cioè andare un pochino più calmi, come dice la dottoressa, sì, ed affidarsi veramente un paio di volte all'anno almeno a un buon fisioterapista, un buon kinesiologo che le sappia consigliare una buona fisioterapia. Un'infiltrazione ogni tanto anche di farmaci, adesso ci sono anche, c'è il famoso acido ialuronico che lubrifica un po' l'articolazione e che tutto sommato fa un pochino meno. Ecco, ma dottore, si è appena concluso il congresso della Società di Chirurgia della Spalla e del Gomito e volevo sapere se ci sono delle novità. Già due ascoltatori mi parlano di infiltrazioni, c'è dell'altro? Diciamo che dal punto di vista infiltrativo ho capito il senso della sua domanda. Dal punto di vista infiltrativo c'è molta attenzione dal punto di vista scientifico, ma qui manca ancora quella che noi chiamiamo un evidence-based medicine, cioè abbiamo ancora bisogno di dati, sì, soprattutto sulle famose infiltrazioni di fattori di crescita. Vuole spiegare, perché abbiamo sicuramente letto, no? Con un prelievo ti salvi il tendine. Ecco, titoli che insomma dicono e non dicono, accendono anche molte speranze. Che cos'è questa iniezione di fattori di crescita e per quali casi è indicata? Lei ha sottolineato già che mancano ancora dati, una letteratura scientifica corposa per far dire che questa è la strada, la strategia, la terapia, però i risultati si vedono. Dottore, rapidamente, perché abbiamo tantissimi ascoltatori che chiedono un parere. I fattori di crescita non sono altro che delle sostanze che sono all'interno delle piastrine del nostro sangue, quindi non si fa altro che rivolgerci al centro trasfusionale di riferimento, il quale crea un concentrato piastrinico con un semplice prelievo di sangue, e da questo concentrato piastrinico vengono isolati questi fattori di crescita, che non sono altro che dal punto di vista materiale proprio un gel, una sorta di gel, un aiuto che viene in questo caso iniettato sui tendini e dà un rinforzo biologico a questi tendini. Si fa esclusivamente in ospedale, la procedura ha un iter molto preciso. Sì. Volevo una risposta rapida prima del... Sentiamo poi Rosi, Claudio, Giusi, siamo per voi. Volevo solo una risposta rapida. Una spalla che scrocchia nel movimento, che cosa vuol dire, dottoressa Copaciu? Lei si preoccuperebbe? Allora sì, allora potrebbero essere dei scrosci articolari e quindi, come diceva il dottor Petriccioli, è fondamentale una diagnosi medica per poi proseguire l'intervento terapeutico. Quindi se la spalla è un po' rumorosa, occhio, attenzione. Eccoci di nuovo insieme con Rosi dalla provincia di Bergamo. Rosi? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per avermi richiamato. Io chiamo per mio marito Angelo, che 2 anni fa, cadendo dal suo camioncino, si è rotto il capitello radiale del gomito destro. Però, questo Angelo fa le cose sul serio. Infatti. E adesso come sta? Niente, è stato operato subito, il giorno dopo, e gli sono stati messi dei fili metallici per poter appunto tenere insieme. Insomma, gliel'hanno riparato, Rosi, gliel'hanno rimandato un po' con dei fili, ma insomma. E adesso la sua spalla come va? La tecarterapia, subito dopo, diciamo, ed è riuscito a recuperare l'estensione del gomito. E il piegamento del braccio, diciamo, per intenderci, riesce a portare la mano alla bocca, ma non riesce a stendere completamente il braccio in modo totale, non è riuscito a recuperare tutta l'estensione. Ecco, diciamo. Dottoressa Copaciu, allora gliel'hanno rimesso a posto, però il gomito, insomma, il braccio non si stende più come una volta, quindi se dovesse portarla a ballare, abbracciarla, insomma, Rosi, è un po', no? E sarebbe un po' limitato. Che cosa deve fare per tornare ad abbracciare Rosi? Risolviamo subito. subito l'handicap. Allora, premesso che il gomito fa malissimo, quindi suo marito ha tutte le ragioni, mentre si fa la riabilitazione, non dico urlare, piangere, ma fa malissimo. Ci vuole un fisioterapista che è ancora più deciso di lui, e avere la pazienza e supportare con un supporto che potrebbe essere una crioterapia oppure anche un antinfiammatorio prima della riabilitazione, ma deve supportare assolutamente. Lo so, fa male, condivido con lui il suo dolore, ma deve riuscire a recuperarla al 100%. E si può fare. Si può fare. Ok, Claudio da Roma e poi Giusy da Como. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo qua. Rapidamente. Rapidissimo, io sono un fisioterapista, quindi il problema non è del gomito mio, ma dei miei pazienti. Sì, quindi è un collega della dottoressa Copaccio. Sì, collega. Sì. Volevo sapere bene, perché una cosa non mi è chiarissima, quando è che si comincia a parlare di intervento chirurgico? Nel senso, ci sono epicondiliti ed epitrocleiti, molto quindi croniche. Quindi tennista, golfista, parliamo tennista, semplice. Golfista, sì. Molto croniche, persone che hanno fastidi e dolori anche da un anno, da molti mesi. Si fa terapia fisica anche di ultima generazione, Tegar, laser alta potenza. Però il problema rimane. Allora, vede che diventa anche un po' un corso di aggiornamento per addetti ai lavori questo. Dottoressa Copaccio, noi volevamo proprio adesso occuparci, mi opero o non mi opero, e il suo collega giustamente le lancia la palla. Rapidamente, quando non funziona, si passa la mano al chirurgo, il dottor Petriccioli sì. È lì già che si sfrega le mani. Direi proprio di sì, cioè dopo i ripetuti... Dopo quanto? Comunque dopo qualche mese se non risolve il problema, e comunque come supporto c'è un feedback sempre con l'ortopedico, che bisogna sempre aggiornarsi continuamente, cioè anche se dopo la quarta, quinta seduta io vedo che non c'è un beneficio che supera il 50%, ho già in mano il telefono e lo sento. Ecco, quarta seduta, intervento al gomito, un intervento doloroso, richiede molta riabilitazione dopo e... Ma nel caso specifico di Claudio? Sì. Sì, nel caso specifico di Claudio, trattandosi di un'epicondilite, molto spesso adesso l'intervento viene eseguito in artroscopia, quindi non è particolarmente doloroso. Perfetto. Sono d'accordo sul fatto che comunque Claudio deve rapportarsi con il collega ortopedico. Perché, come diciamo sempre, è un lavoro d'equipe. D'equipe. E comunque se la sintomatologia non recede, bisogna purtroppo passare la mano talvolta al chirurgo. Io volevo chiederle, sulla spalla valgono le stesse cose che ci siamo dette sul gomito? Sì. Quindi a parte i traumi, si prova prima con tutto quello che la fisioterapia, le terapie fisiche manuali possono mettere dopo la diagnosi, dottor Petriccioli? L'unico problema, dottoressa, è sempre rappresentato dal timing, cioè dopo quanto lei passa la palla al chirurgo. Quindi questo è sempre un problema, cioè quanto il paziente è disposto a sopportare il dolore prima di affrontare un intervento chirurgico. Qui c'è un fatto ovviamente di cultura, di filosofia, eccetera, però qualche mese di fisioterapia, di trattamento incruento va comunque tentato. E poi semmai, e poi la riabilitazione ricomincia dopo l'intervento. Questo io continuo a dirlo perché spesso le persone si fanno operare e poi si stufano, o magari la riabilitazione è un po' dolorosa e tagliano corto. Errorissimo, dottor Petriccioli, dottoressa, io sono stata veramente contenta di averla qua con noi perché è riuscita a darci un po' il quadro della situazione. Gomito e spalla, se avete altre domande, essere benessere @radio24.it. dottoressa Copaccio, dottor Petriccioli, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. E dedichiamo gli ultimi minuti della trasmissione a due vecchie conoscenze di cui abbiamo parlato più volte in diverse occasioni: la vitamina D e il cortisone. Se ne parlerà al Congresso Europeo di Reumatologia EULAR, che si apre proprio domani a Roma. E in linea con noi abbiamo il professor Maurizio Cutolo, direttore della Clinica Reumatologica dell'Università di Genova e presidente esecutivo del Congresso. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, io direi, se lei è d'accordo, di iniziare dalla vitamina D, che tutti noi conosciamo nel ruolo di vitamina amica della salute delle ossa e che in estate vive il suo periodo migliore. Le ricerche dimostrano che è efficace anche nel combattere le malattie infiammatorie. Certo. I risultati vengono da due osservazioni: la ricerca di base, la ricerca scientifica, e la pratica clinica. I malati con malattie infiammatorie, reumatiche, immunitarie soprattutto, come l'artrite reumatoide, il lupus e così via, hanno bassissimi livelli di vitamina D. Questo coincide con una maggiore severità della malattia e coincide anche con un andamento annuale di peggioramento della malattia che è più evidente d'inverno. Perché? Perché proprio d'inverno cominciamo a pagare lo scotto di scarse esposizione al sole, e poiché l'80% di questa preziosa vitamina si forma proprio nella cute, il precursore, ecco che poi in inverno, in autunno andiamo a pagare le conseguenze. La vitamina D con la sua azione antinfiammatoria immunosoppressiva perde la sua potenza ed ecco che le malattie di quel tipo sostenute da infiammazione e risposta immunitaria sono maggiormente scatenatesi. Quindi, professore, facciamone scorta in questa stagione, prendendo il sole regolarmente, naturalmente con le dovute precauzioni e protezioni. Certo, non troppo protetti per i primi 20-30 minuti, altrimenti perdiamo l'azione degli raggi ultravioletti che proprio in questo caso ci servono, ma bastano, pensi, soltanto 20-30 minuti per produrre 10.000 unità di vitamina D nel nostro corpo, pensando che normalmente ce ne servono 2.000 al giorno, quindi carichiamo le batterie per l'inverno. Professore, veniamo ora al cortisone. Tra breve arriverà in Italia la versione notturna. Professore, detto così mi rendo conto che sembra una battuta, ma questo si tradurrà in numerosi vantaggi per i pazienti che ne fanno uso. Certo, anche qui di nuovo un'attenta valutazione sia della clinica. Sappiamo tutti che l'artrite si scatena maggiormente di notte, il mattino, il dolore nell'artrite reumatoide al mattino, ma anche altre malattie come le allergie sono più frequenti, le crisi di notte. Perché? Perché di notte il nostro sistema immunitario e il sistema infiammatorio, tra virgolette, si attiva, e quando siamo in uno stato di malattia questa, diciamo, bombardamento sulle cellule determina poi i sintomi che si rivelano alla mattina. Noi normalmente di notte facciamo un lavoro col nostro cortisone endogeno che produciamo di notte, ma alla lunga ne consumiamo troppo e non ne abbiamo più, ed ecco il bisogno di venire in aiuto con la dose di cortisone esterno. Adesso si finalmente prenderlo la sera, avere prodotti che lo liberano di notte al momento giusto, e ne risparmiamo per quanto riguarda il dosaggio e anche ovviamente gli effetti collaterali, che non saranno più devastanti come quelli ottenuti durante la somministrazione libera durante il giorno. Quando arriverà in Italia? Fine dell'anno, professore? Si presume di sì, in alcune nazioni come la Germania è già in commercio da un anno e sono praticamente gli stessi governi a pagarne il costo, perché si è visto che i risultati sono eccezionali. Professore, io la ringrazio e intanto le auguro buon convegno. Parte domani, giusto? Sì, e siamo qui in attesa dei 16.000 reumatologi che vengono da tutto il mondo, 120 nazioni. Grazie professore per queste anticipazioni, noi ci sentiamo presto, buon lavoro e buon convegno e buona giornata. Grazie a lei e a tutti voi. E per oggi è tutto, io vi saluto, vi do come sempre appuntamento a domani, dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.